I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Deborah Rosciani. Ci aspettiamo un'altra settimana finanziaria volatile, suscettibile, del tutto appesa all'estenuante braccio di ferro fra Atene e Bruxelles. La settimana scorsa si è chiusa in maniera brillante per i listini internazionali, mossi dalla convinzione totale che un accordo per un nuovo piano di aiuti ad Atene si potesse trovare già venerdì. Invece, come noto, nel fine settimana è stato del tutto sconfessato questo progetto. La posta in gioco si è alzata notevolmente, soprattutto sono state poste delle condizioni durissime al governo Tsipras per ottenere il sostegno al programma ISM, il Fondo Salva Stati. Nel frattempo banche e borsa ancora chiuse ad Atene senza nessuna prospettiva sulla riapertura e prelievi ancora con il contagocce per i cittadini greci. Nessun aiuto dunque alla Grecia fino a quando non ci saranno le riforme richieste. Sono riforme di portata enorme che Bruxelles chiede di varare entro 3 giorni, altrimenti potrebbe andare avanti la linea tedesca, cioè Atene fuori dall'euro per 5 anni. Così mercati in allerta e dopo la tenuta molto esistente che hanno manifestato la scorsa ottava di borsa, nessuno è pronto a scommettere che lo stesso atteggiamento potrà essere garantito nei prossimi giorni. Piazza Affari è stata la più penalizzata fra i listini europei. Negli ultimi 15 giorni ha bruciato più di 30 miliardi di euro di capitalizzazione, potrebbe essere ancora in balia dei mercati a causa di questa incertezza che scuote soprattutto il settore finanziario, i titoli bancari, e sappiamo quanto questi pesino sul listino italiano. Sullo sfondo peraltro non dobbiamo dimenticare che si agita anche lo scoppio della bolla sul mercato azionario cinese, su cui ha messo una toppa il governo, ma che comunque preoccupa la comunità mondiale degli investitori. L'Asia comunque stamattina è tutta ampiamente positiva. Grecia a parte, che certamente non è un tema da poco, uno sguardo ad alcuni appuntamenti della settimana. Trimestrali americane a raffica, nei prossimi giorni tocca a tutti i colossi finanziari e bancari rassegnare i conti del secondo trimestre. Giovedì c'è il direttivo della Banca Centrale Europea ed è un appuntamento molto importante anche per il ruolo che la BCE gioca nella vicenda greca e anche perché ci sono gli acquisti di titoli di Stato garantiti dal quantitative easing che stanno arginando il potenziale effetto negativo che potrebbe esserci su spread ed obbligazioni a causa appunto della crisi greca. A questo proposito, oggi da tenere sotto controllo l'asta del Tesoro italiano che offre BTP a 3, 7, 15 e 30 anni per 7,5 miliardi. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.